pallido prence danese, che parla solo, che veste a nero, che si diverte nelle contese, che per di porto va al cimitero, se giù a qua carte fa il solitario, suono ad orecchio tutta l'aione per far qualcosa di ameno e gaio, col babbo morto fo colazione. Gustavo Modena, Rossi, Salvini, stanchi di amare la bionda Ofelia, forse sul serio o forse per Celia, m'han detto vattene con Petrolini dei Salamini. Essere o non essere, no, non può essere così, sia comunque sia. E là è il padre mio che mi chiama, lo so, ti fu inoculato il veleno in un orecchio, e là mi si presenta sotto le spoglie di un fantasma, ma di ben suo fantasma, lo hai mai preso qualche equivoco in tempo di vita tua, il cimiero alzato, grida vendetta, sarai venditato, il gallo canta, il padre mio ha fatto l'uovo, gioco a scopone, il mio compagno spariglia i pezzi, compro le scarpe, mi stanno strette, se qualche volta in festa io ballo, la mia compagna mi pesta un callo, monto in vettura, muore il cavallo. Vado a Messina, viene il tremoto, se compro un sigaro ci trovo un pelo, se compro qualche cosa che non è un sigaro non ci trovo quello, ma si può essere più disgraziati di Amleto, più afflitti, più melanconici, più dolorosi di Amleto, Amleto, Amleto. Ma che voleva Amleto? Io non ho mai capito sì che voleva Amleto. Poteva essere felice, no? Poteva essere amato, no? Ofelia, è là, amarla, sognare, dormire, amare, sì, poiché l'amore... L'amore è facile, non è difficile, ci andrà a succedere, succederà. L'amore è facile, non è difficile, ci andrà a succedere, succederà.